As you may know, there are many kinds of pasta. Lorenzo orders penne, which literally means pens. In this case, the dish he's chosen is penne all'arrabbiata. Because it has a very spicy sauce of tomatoes and olives, Lorenzo asks Sarah, le piace il cibo piccante? Do you like spicy food? Here's how to answer in Italian if you do like something. Sì, mi piace. If you don't like something, you can say no, non mi piace. Listen to each of those phrases again and repeat. Sì, mi piace. No, non mi piace. Now answer the following questions, first saying that you like it and then that you don't like it. And try to let your intonation reflect your like or dislike. Ascolti l'esempio. Listen to the example. Le piace il prosciutto? Sì, mi piace. No, non mi piace. Ready? Pronti? Then we'll begin. Cominciamo. Le piace la finocchiona? Sì, mi piace. No, non mi piace. Le piace il salame? Sì, mi piace. No, non mi piace. Le piace la ribollita? Sì, mi piace. No, non mi piace. Le piace la pizza? Sì, mi piace. No, non mi piace.